Pronto? Pronto, Carlotta, ciao. Eccomi qua. Ciao. Ci siamo. Siamo Giorgia e Francesca. Ciao, benvenuta. Ciao ragazze, tutto bene laggiù? Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Ti stiamo aspettando in realtà, non vediamo l'ora di vederti. Ebbene, il 18. Sì, a breve tornerò a Bologna, e bell'evento, sarà un bell'evento per tutti, per non... quanto riuscirò a ricordarmelo sperando di non stronzarmi. Ma domani. Infatti a quello penseremo noi, non ti preoccupare. Documentate con delle foto. Esatto, assolutamente sì. Io so dove ero, con chi ero, sì. E ricostruiamo con la polizia. Tutte le informazioni. Faremo delle Kodak, così potremo anche stamparle, cioè non sarà solo bellissimo, un ricordo virtuale. Bellissimo. E già vedo che mi state facendo tipo blackmailing, quindi esatto. La mia famiglia. Perfetto, bello. Vabbè, ci siamo capite, Ma Carlotta, torni a Bologna al Covo, dove sei stata già qualche tempo fa dopo il live dei giocattoli. E com'è per te Bologna e com'è per te anche il Covo? Quindi un'istituzione qua in realtà per Bologna, ma non solo per i bolognesi. Guarda, il Covo, io inizio a sentire parlare del Covo tanti anni fa, ti parlo di 12 anni fa, forse sì, 12-10 anni fa, okay. Quando ero ancora giovane e sì, io suonavo in una... suonavo in questa discoteca di Milano chiamata Plastic per una serata che si chiamava London Lods. Okay. Praticamente eravamo gemellati con il Covo. Okay. E quindi fondamentalmente per Capodanno c'erano i miei altri colleghi DJ che venivano a suonare al Covo, sentivo sempre parlare del Covo, però per anni non ci ho mai messo piede, quindi per me era un po' la leggenda metropolitana di questo Covo dove tutti andavano e tornavano distrutti, capito? A Milano, poi gemellaggio distruttivo. Cioè, una figata, capito? Distruttivo, vanno in Erasmus. E finché non ci vado per la prima volta, ma ti parlerò di 3-4 anni fa per un live che non ricordo, estivo. Ah no, col cavolo, vedi, perché cioè, ormai c'è un po' d'Alzheimer, no, cioè, perdo ogni tanto qualche snap. Praticamente era il concerto, il live di Car Brave e Franco 126 nell'estivo esterno. Sì, quindi sì, sì, nel cortile. 10 anni per mettere piede al Covo, cioè recidiva proprio. Beh dai, alla fine ed l'importante è farcela. È stata una bomba a mano e ho vomitato nel parchetto fuori. Ci piace. Bene, non vediamo l'ora di venire a questa serata organizzata anche da Girl Gang con la Sara, insomma ci saranno proprio tutti. E in realtà noi ci siamo conosciute alla riunione di She Said So Italia a Milano. Esatto. Durante la Music Week, e volevamo sapere che cosa ne pensi. Comunque tu sei venuta in veste di referente di Bossi, che sì, lo ricordiamo è una fantastica istituzione che insomma offre aiuto psicologico ma anche molto più concreto alle donne, ma non solo. Insomma, spiegaci tu che cos'è Bossi e anche che cosa ne hai pensato insomma di She Said So. Allora, ti spiego tutto. Io sono stata referente, sono referente per la parte che riguarda poi tutta quella che era il caso Abanero con le situazioni di molestie e la situazione anche delle truffe che aveva atteso alcune persone per quanto riguarda la casa editrice. Mm-hmm. Non sono parte dell'organizzazione di Bossi. Bossi è un'associazione che si batte per promuovere e divulgare diciamo tutta l'integrazione di donne, uomini, gay, lesbo, la comunità LGBT all'interno delle situazioni lavorative, scolastiche e sociali dove ce n'è bisogno. Quindi loro fanno proprio un ingresso sul territorio, nelle istituzioni, per spiegare che cosa sia tutta la materia LGBT e cercare anche di aiutare quelle che sono le situazioni di rischio e di fragilità, come magari appunto nelle scuole gli adolescenti oppure nei posti di lavoro dove ancora c'è molta chiusura mentale. She Said So è un'altra realtà che mi ha colpito tantissimo, oltre ai Bossi, sì, con cui appunto collaboro e mi ritrovo molto molto bene. She Said So è praticamente un'associazione di donne che lavorano nel business musicale, nell'industria musicale. È un'organizzazione internazionale, se non mi sbaglio, che sì, poi sì, attiva sì, esatto, in Italia, giusto? Sì, sì, così. E sono super toste, e è veramente una gran figata, cioè la riunione a cui ho partecipato è stata molto molto di impatto e mi ha molto stupito, ecco, appunto, che ci sia ancora purtroppo la necessità di riunirsi in gruppi femminili, perché magari è strano in alcuni ambienti di lavoro essere circondati, sì, da uomini, ecco, capito, che non ci sia questa integrazione quasi naturale della cosa. Assolutamente. E ho conosciuto donne con contropalle, contropalle veramente. Guarda, è stata veramente molto felice di questo. La stessa impressione che abbiamo avuto anche noi quando abbiamo conosciuto l'iniziativa e le persone che sono dietro a questa iniziativa, e mi ritrovo un sacco nelle tue parole, cioè è un peccato che sembri straordinario ciò che è ordinario. Il nostro progetto, quello mio, sì, di Giorgia Futura, è nato da donne, ma cioè noi vorremmo, insomma, essere, come dire, catturare l'attenzione non per il fatto che l'hanno creato donne. Sì, assolutamente, non è un progetto dipinto di rosa, esatto, ecco, collaborano con noi anche dei ragazzi. Quindi capiamo perfettamente che non vorremmo ci sia questa necessità di tingere di rosa forzatamente, no? Quindi sì, vorremmo sapere da te, secondo te, qual è il modo migliore, appunto, di veicolare un messaggio di integrazione? Cioè, non per forza con magari anche spingendo forzatamente, anche insomma facendo largo con le spalle, con i gomiti, ecco, non mi sta venendo il termine. Come faresti tu? Cosa consiglieresti? Guarda, sicuramente c'è bisogno di un'azione sul campo, prenderli quando sono ancora giovani, io la chiamo sì, come cosa, cioè quando sono ancora giovani, con delle associazioni, con delle case delle donne, con volontari, fare degli interventi in quelli che sono gli spazi scolastici, nelle assemblee, nei collettivi, anche negli orari di lezione, per quanto riguarda un tema che a me è molto molto caro, che è quello della sessuologia, per esempio. Mm-hmm. Cercare di entrare, appunto, e prenderli da giovani, perché lo stavo vedendo, appunto, in questi giorni in una serie TV su Netflix, che la nuova generazione è Sex Education. Tra l'altro sui tuoi social stiamo ancora aspettando la recensione. Lo so, lo so, sono pigra in questi giorni. E niente, praticamente le nuove generazioni viene bene fuori da questo telefilm, che sono molto spinte e interessate al femminismo, anzi, rispetto alla mia generazione, a un certo punto un personaggio dice: vedi lui che figo, lui non solo è bello, non solo è intelligente, ma è pure femminista, è praticamente Ryan Gosling ancora più buono. Ecco qua. Quindi, cioè, diciamo che si arriva a capire piano piano che, capito, cioè è una qualità, è un valore aggiunto cercare l'empatia, quindi secondo me andare a cercare le persone più piccole può cambiare poi nel futuro quello che per adesso è stata una grande consuetudine, ovvero cercare di sgomitare noi donne per farci valere in un mondo a tendenza maschile. Sì, è assolutamente così. Ma tra l'altro, a proposito dei tuoi social, tu li usi in modo estremamente attivo, diciamo che non sono per te soltanto una vetrina dei tuoi lavori e di quello che fai quotidianamente, ma insomma cerchi proprio un'interazione con i tuoi follower. Io tra l'altro mi sono permessa di andare a vedere uno dei tuoi post che hai scritto in questi giorni, che mi è piaciuto moltissimo. E fammi indovinare quale. Era quello dove tu raccontavi insomma di una frase che immaginato tu abbia sentito in questi giorni, e insomma che ti ha fatto tornare in mente un flashback di quando eri più piccola a scuola e hai letto un'offesa sul tuo conto, sul muro della scuola, appunto. Mi è piaciuto molto e proprio per questo ti volevo chiedere: tu comunque hai tanti follower, usi molto i social, eccetera, come consigli alle persone che magari sono più delicate anche psicologicamente di affrontare il mondo dei social e delle offese, perché comunque si parla di bullismo? Allora, guarda, ricevo un sacco di messaggi a tema ogni giorno e spesso non ce la faccio, infatti, a rispondere a tutti, perché cioè, mi perdo, però infatti vorrei fare anche una serie di live a questo proposito, perché purtroppo dico sempre questo: nel momento in cui internet è diventato accessibile a tutti, si è perso anche un po' quella il cosa filtro necessario. Che magari, esattamente, è diventato un punto dove, non avendo tu un contatto diretto con la persona, ma mediato da quello che è un social network, puoi dire qualsiasi cosa. Dall'altra parte però la persona è comunque un essere recettivo, e anche se tu non hai un'identità, perché magari non ti vedo, cioè io da te prendo degli insulti che mi possono fare anche male. Certo. Quindi io dico sempre che l'insegnamento numero uno che io nel mio piccolo cerco di dare è quello di fregarsene sempre, cioè non dare mai peso a tutte quelle che sono, specialmente quello che la gente può pensare, perché non è edificante ed è anche molto limitante, poi, specialmente nel campo artistico, tra virgolette, cioè se uno sta sempre attaccato a quello che pensano gli altri, non sarà mai libero di esprimersi artisticamente al meglio, perché avrà sempre paura di una controparte. Quindi però per le persone magari più piccole, per le persone più insicure, per le persone che vengono fuori anche da un esaurimento nervoso, da una depressione, da un'anoressia, io consiglio sempre di andarci per gradi. Andarci per gradi e non spingere tutto sull'acceleratore insieme. Baby steps, cercare di capire quanto si può andare oltre e vincere la propria paura di mostrarsi per come si è, un po' alla volta. E poi si può capire e malleare i propri tempi, magari qualcuno non è pronto, magari non è giusto il momento, non è giusto il modo, cioè ci sono una serie di variabili, basta sapersi ascoltare sempre, sempre. Carlotta, cosa vuol dire oggi prendere una posizione all'interno di un contesto in cui, insomma, viviamo, che sia lavorativo e non, ad oggi anche sui social, e cosa voleva dire farlo 10 anni fa, no? Qualche anno fa, noi sappiamo che appunto sei a Milano da un po' di tempo, hai detto che collaboravi con vari locali di Milano, credo non sia stato semplice, immagino. Ma guarda, prendere una posizione adesso è ovviamente... Cioè, ci sono due grandi differenze rispetto a 10 anni fa. Se 10 anni fa prendevi una posizione, erano un po' cazzi tuoi, nel senso, non potevi essere isolata, non si sapeva se qualcun altro nel mondo la pensasse come te, capito? Cioè, però adesso magari c'è una filone di pensiero, una roba tipo il Me Too. Ecco, è stato un movimento grazie ai social, per esempio, tutti sapevano che c'era questa problematica. Mentre magari la tiravi fuori in un ambiente di lavoro 10-15 anni fa e dicevo, sì, vabbè, Mattia, cioè, sarà un problema solo tuo, che cazzo ne sappiamo. Mentre il social tira fuori piano piano queste cose, cioè anche i pareri, le diverse esperienze, può accomunare le persone sotto una stessa ideologia, una stessa associazione, uno stesso pensiero. Però al contempo 10 anni fa magari ti attivavi un po' di più, visto che magari le cose, le proteste da social rimangono e tendono spesso a rimanere da social. Mentre mi ricordo che gioventù mia c'è una cosa che faceva veramente incazzare, scendere in piazza, ecco. Cosa che magari vedo un po' meno, capito? Cioè, certo, ci sono certo. Più sondaggi, più proposte di raccolta firme e meno partecipazione attiva. Assolutamente. È vero. C'è da dire che tu comunque riesci sempre a rispondere con una sbadilata di ironia, infatti voglio chiederti come diavolo fai. L'altro giorno, sempre tornando a qualche tua story, mi pare, hai detto che addirittura tempo fa qualcuno ti mandò una foto del cazzo in chat e tu gli risposi dicendo, rispondesse, aiuto, mi sto svalvolando, grammar, no, aiuto. Fai finta di essere entrata in galleria, non prende bene. Non prende, torta Aldo, Giovanni e Giacomo. No, però insomma tu gli dissi, gli dicesti, madonna ragazzi, aiuto, guarda che sei un po' arrossato, vai e fatti controllare. E mi questo quando... E aiuto, scoprì che davvero aveva un problema. Scoprì che aveva i condilomi e ritornò da me dopo un mese scrivendomi, guarda, comunque grazie mille, mi hai aiutato un sacco perché insomma ti ho mandato la foto del cazzo, volevo fare il ganto, però alla fine io gli ho proprio risposto, guarda, mi sa che non stai proprio bene. Madonna, ma come fai? Io ti giuro, ma come fai a reagire così con questa leggerezza? Cioè non ti scalfisce, non ti incazzi, diciamo, ma le cose, guarda, come vanno dette? io sto pensando di fare una serie di corsi su come reagire a queste cose qua, perché succede questo: se ti incazzi, loro ti dicono che sei una puttana frigida, ecco, e che avresti bisogno di cazzo. Sì. Questo è completamente inutile, perché loro rimarranno fermi nella loro convinzione, sì, e tu avrai ancora di più stabile di incazzatura che non ti porterà da nessuna parte, e penserai, cioè, allora io voglio l'ultima parola. No, non si impara niente. Loro purtroppo fanno così, non si sa per quale scompenso psicofisico. E quale mancanza, non lo so. Esattamente. Sì, e poi se ci pensi è anche una forma di violenza online, cioè molto soft, se vuoi, però... È una molestia a tutti gli effetti, cioè nel senso, quando uno faceva così negli anni 90, era il maniaco che si apriva l'impermeabile al parchetto. Esatto. Cioè, né più né meno, cioè né più né meno, cioè se arrivava gli spiriti ti portavano via. E quindi anche questo, cioè... È una roba, sì, che ti dici, dai, non è che così, ehi, ciao, bam, cazzo, no, non ha un criterio neanche logico, capisci? No, assolutamente no. E quindi l'unica via, secondo me, è cercare di farli sentire un attimo fuori, a disagio, come, sì, noi siamo a disagio nel riceverlo, loro a disagio nel ricevere una risposta. L'altro giorno infatti consigliavo anche, cioè, a una mia amica, mi fa, oh, mi è arrivato un cazzo in chat, che faccio? E mandagli una foto di una tua parte del corpo a caso, un ginocchio, un'orecchia, un piede, cioè, un bufolo, cioè, oppure mandare, fare un archivio storico da tenere nel telefono sotto una cartella nominata innominabile, esatto, e rispondere con un altro cazzo più grande. Meraviglia, meraviglia. Meraviglioso. Per farli sentire, capito? Ce la segniamo. Una guerra, meraviglia, di cappelle, capito? Bella, mi piace, questa è nuova. Carlotta, invece, io vorrei sapere se tu hai una ricetta che secondo te può aiutare ad oggi a avere una consapevolezza di sé a tutti gli effetti. Quindi, quali sono gli ingredienti giusti? Bella domanda. Per avere consapevolezza di sé bisogna innanzitutto sbagliare un sacco di volte. Cioè, più sbagli e più limi le cose che non vanno. Ecco. È una... chiamate che arrivano, okay. E, praticamente più sbagli e più ovviamente impari a capire qual è la cosa più giusta da fare, perché le strade si accorciano, e dove devi andare e in che modo devi andare. Cioè, io personalmente sono arrivata alla consapevolezza sbagliando i lavori che facevo, sbagliando le scelte che facevo con le persone, frequentare persone sbagliate, fidanzarmi con persone sbagliate. Piano piano capivo, anche riflettendomi in quello che mi dicevano queste persone, che cosa potessi essere io e dove stessi andando a parare. Ottimo, è un consiglio che ci conforta moltissimo questo. Perché... Sì, fare cappellate al random. Esatto, assolutamente. Ma senti una cosa, dato che comunque il nostro è un programma musicale, vogliamo chiederti di questa nuova scena italiana chi ti piace di più e di consigliarci quindi un brano da mandare in questa puntata. Io sono rimasta sottissimo a sopra di Gazzelle. Ah, okay. Bene, bene. Proprio male. No. Piace anche a noi. Hai visto, c'è copyright qua. No, ci sono proprio rimasta secca e l'ho sentita il giorno di Capodanno e me la sto consumando, almeno un paio di volte al giorno me la ascolto. Wow, meravigliosa. Manderemo allora questa insieme alla tua intervista. Noi ti ringraziamo un sacco e ci diamo appuntamento ovviamente al 18, quindi esatto, tra qualche giorno. Grazie mille. Perfetto. Per essere stata con noi. Grazie a voi, ragazzi. Un bacione. Ciao. Ciao.